È Don Lui, è Don Lui. A Don Luigi ci piace la birra, cerveza la birra, cerveza la birra. E mi parla spagnolo e tedesco, spagnolo tedesco, francese e francese. Cerveza e birra di stamattino. Esta mañana muy temprano, continuo a dire in castigliano. Tutto il giorno i pieri, e sono mugeri che pensieri. Cena pronta, cena fredda, ma un po' di pace per il nostro trabajador. L'acqua van terreni. e poi mille sigarette, una duma e mille sigarette, da forza Don Luigi, sapevi visto. Ehi, Don Luigi, Don Luigi, forza, sapevi visto una birra, va, caccia un fruio. E poi mille sigarette, una studa, una duma. Don Luigi, sapevi visto una giambira, Don Luigi. Ehi, Don Luigi, è una studa, è una duma. Forza, sapevi visto una birra, va, caccia un fruio, chi sta.